Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora pochi giorni per la cosiddetta mini IMU, un adeguamento, un saldo, diciamo così, che interessa circa un comune su quattro in tutta Italia, quindi mediamente un cittadino su quattro. Il saldo dell'IMU che lo Stato non è riuscito a coprire dopo l'abolizione della tassa sulla prima casa e che riguarda i comuni che avevano aumentato anche magari di poco la aliquota base del 4 per 1000. Pochi giorni, tante code, qualche consiglio lo chiediamo all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre col presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevo, mediamente un comune su quattro, quindi ipotizziamo che anche in Veneto, senza fare la lista, ci sia questa percentuale di territorio, di amministrazione, di cittadini interessati da questo provvedimento. L'aliquota base era il 4 per 1000, chi ha fatto 4,1, 4,2 fino al 5, insomma c'era un limite oltre il quale non si poteva andare e questa differenza deve essere pagata dal cittadino entro pochi giorni. Sicuramente è un provvedimento che interessa moltissimi cittadini, è un provvedimento vergognoso perché al di là di quello che sarà l'importo, che poi andremo a spiegare come verrà calcolato, ma certamente è un provvedimento che ha avuto come unica conseguenza quella di congestionare gli uffici dei comuni e dei CAF, ma soprattutto anche perché per l'ennesima volta vediamo come la burocrazia non è sicuramente a portata del consumatore, che in un provvedimento così vergognoso non mette certamente in condizione di poter procedere autonomamente, ma appunto rivolgersi a questi enti e poi dover andare in banca con un F24 a dover pagare le differenze. Ecco, poi c'è anche il problema dell'informazione, perché su queste tasse in queste settimane si è fatto un polverone incredibile, tanto che ci sono cittadini che pensano di dover pagare e magari non devono farlo perché il loro comune invece ha tenuto l'aliquota base, quindi in realtà sono tutti in subbuglio, anche quelli che non sono tenuti al versamento. Certamente, ricordiamo che sulla casa c'è una grande partita ancora tutta aperta, abbiamo appena saldato la TARES, l'F24 con l'aumento del 30 centesimi al metro quadro per i servizi indivisibili in dicembre, adesso abbiamo la mini IMU, poi a fine gennaio avremo l'acconto, il primo dei tre acconti della nuova tassa che non si capisce più se si chiamerà TISE o IUC o qualcos'altro. Veramente anch'io non riesco più a stargli dietro e ne cambiano continuamente le proposte e le modalità con cui si dovranno pagare, però è anche qui verrà fuori un gran portafoglio perché le persone non riescono a capire come poterla calcolare conseguentemente a questi giochini, ma soprattutto tornando alla mini IMU, questa è una tassa scandalosa che, ripeto, che al di là di quello che sarà l'importo, che sostanzialmente non sarà un grande importo, ma che comunque sta creando un grandissimo subbuglio, perché veramente le persone in questi giorni si stanno muovendo alla disperata e anche in ordine sparso, ma sostanzialmente appunto andrà a coinvolgere molti cittadini e per lo più cittadini che sicuramente non saranno neanche tanto bravi a utilizzare il computer come sono normalmente gli anziani. Ecco, appunto, proprio loro ingrossano le file ai comuni, ai centri di assistenza fiscale o alle associazioni dei consumatori. Proviamo a fare un esempio concreto di come si calcola questa mini IMU e di quanto potrebbe costare, insomma, mediamente. Guarda, allora, per fare un esempio concreto bisogna veramente cominciare a spiegare come l'hanno pensato i nostri geniali politici. Innanzitutto il cittadino deve verificare la delibera del comune dell'anno precedente per capire, come hai detto tu, come la delibera comunale aveva stabilito voler pagare l'IMU l'anno scorso, perché se nella mini IMU si considera come data di riferimento il 0,4%, è vero che molti comuni hanno applicato il 4,5%, il 5%, il 5,5%. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'utente deve considerare, una volta che ha ricevuto l'informativa di quale valore comune ha applicato l'anno scorso, per esempio facciamo il 0,5% sulla rendita catastale, deve prendere la calcolatrice e fare in modo di verificare quanto avrebbe pagato se il coefficiente sarebbe stato del 0,4%. Dopodiché una volta che ha trovato il valore, sottrarlo da quello che ha pagato l'anno scorso, che come abbiamo detto poteva essere stato 0,5%. Per l'anno scorso intendiamo 2012, perché nel 2013 si è pagata l'IMU prima casa. Certamente, quindi se con il 0,4 ho pagato 200 euro, con il 0,5 ho pagato 200 euro, con il 0,5 pagavo 250 euro, il consumatore deve fare 250 meno 200 e fuori il dato di 50 euro. E lui deve calcolare poi il 40% di 50 euro, perché l'IMU era stata abolita nel corso dell'anno, quindi per un effetto della proporzionalità dei mesi in cui è rimasto in vigore, deve calcolare poi il 40% della cifra che è risultata e di conseguenza poi compilare un specifico F24 e andare in banca a pagare. Con poi le spese di commissione evidentemente che si aggiungono. Alla fine potrebbe essere qualche euro, qualche decina di euro per dare un'idea, però mi pare che la confusione e le scomodità siano molto superiori. La mia impressione è, Mirko, che quando accadono queste cose c'è più un interesse a fare in modo di far sbagliare i conteggi per poi inviarti in futuro sanzioni di alto importo rispetto a quello che è il valore che si debba realmente pagare. Certamente però tutta l'architettura di questa cosa è scandalosa, perché è chiaro che, così come abbiamo detto, chiunque capisce che nessuno sostanzialmente è in grado di poter agire autonomamente, anche perché qua non si tratta solo di applicare formule a dei modelli matematici, ma si tratta proprio di fare dei veri calcoli ed essere sicuro anche che la rendita catastale che noi andiamo a prendere, che dobbiamo sapere che se quella di una volta deve essere stata rivalutata del 5% dopo del 60%, poi bisogna verificare la delibera comunale dell'anno 2012 come riferimento rispetto a quello del 2013, calcolare la differenza tra quello che avrei dovuto pagare con un 0,4% rispetto a un dato del comune, fare la differenza, calcolare il 40%, compilare un F24 e andare in banca. Ecco, solo questo fa capire come, fino a che punto qualcuno si inventa di complicarci la vita, quando sostanzialmente non è neanche il caso di veramente trovare soluzioni di questo genere. Venerdì 24, della prossima settimana c'è questa scadenza, perché è tenuto a rispettarla, e poi nei giorni successivi spero parleremo in modo abbastanza chiaro della nuova tassa, non diamole un nome ancora. Grazie intanto al presidente dell'Adico, a Carlo Garofolini, appuntamento appunto la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.